Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Buona giornata a voi, benvenuti, buon sabato. Devo dirvi che oggi questa casa non è un albergo. È un po' sottosopra, perché sommerso da una pila di libri, lui non è molto alto, quindi si fa fatica, cioè, e c'è Alberto Pellai. Alberto! Ciao Nicoletta, buongiorno. Sai che io in compagnia dei libri sono sempre molto molto felice, anche in tua compagnia però. Sì, però fatti vedere il tuo faccino, perché se no non ti vedo. Spostiamo un po'. Senti, oggi siamo circondati dai libri, ma saremo circondati anche da amici, da tanti ospiti. Saremo come proprio un porto di mare, chi va, chi viene. Abbiamo scrittori molto molto famosi. Beh, a me piacciono molto queste case un po' fatte a porto di mare. Adolescenti che leggono. Abbiamo anche una libraia dei ragazzi, è Alice Bigli della libreria Viale dei Ciliegi di Rimini. Buongiorno Alice, grazie che sei con noi. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. E abbiamo anche un ospite che ci è venuto a trovare, è venuto a trovarci nuovamente perché era già stato nostro ospite, è un pezzettone da 90, Alberto, e per introdurvelo, prima di salutarvi, vi faccio ascoltare un brano del suo ultimo romanzo. Chissà se l'avete già letto, lo riconoscete, lo stile può aiutarvi. 5 buoni propositi per il mese: dimagrire 2 kg, comprare ballerine nere col fiocchetto, farsi regalare scheda con 500 sms in omaggio, andare con Alice e Claude a vedere il concerto dei Finlay, comprare 1000 splendidi soli di Khaled Hosseini, dicono che è bello. Nome: Carolina detta Caro. Compleanno: 3 febbraio. Dove vivi? Roma. Dove vorresti vivere? New York, Londra, Parigi. Dove non vorresti vivere? A casa quando papà strilla. Numero di scarpe? Meno di quelle che vorrei. O intendevi la misura? Occhiali? Grandi, da sole. Orecchini? 2, a volte, ma spesso no. Segni particolari? Quelli sul cuore. Pacifista o guerrigliera? Pacigu. Pacifista o guerrigliera, a seconda dei momenti. Sesso? Il mio o se l'ho mai fatto? Allora, beh, questa Carolina mi ricorda qualcuno, ma in linea con noi è tornato a trovarci Federico Moccia, molti di voi l'avranno già riconosciuto dallo stile. Federico, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Amore 14, questo è il nuovo tuo ultimo, chissà perché dicono sempre fatica letteraria, è una fatica? No, io infatti ricognerei questa introduzione con piacere letterario. Vero? Sì, assolutamente, io credo che è faticoso in alcuni momenti, ma fondamentalmente è un piacere, soprattutto nella parte iniziale, quando uno immagina, crea proprio un personaggio. A me quello è il momento che mi piace di più, anche perché in un libro poi tutto può andare come veramente vuoi, come desideri, no? Come a volte purtroppo non è nella vita. Certo, quindi Amore 14, c'è una Carolina. Le Caroline poi hanno sempre, io ho anche una figlia che si chiama Carolina, hanno qualche cosa che le distingue. Io non ho un programma. Federico, stavolta sei davvero completamente dentro al tema della nostra trasmissione, cioè l'adolescenza. Sei tornato proprio a parlare, non di un'adolescenza qua, di un adolescente quasi adulta, ma di una quattordicenne pura, piena proprio di adolescenza. Come mai questa sorta di ritorno al futuro? Al futuro o alle origini, in realtà. Ma la Carolina che vado a raccontare è una quattordicenne, ma poi è la voce portante di questo romanzo Amore 14. In realtà parla della mamma, soprattutto del fratello più grande, della sorella più grande e della nonna e il nonno. Quindi è tornare un pochino alle origini per poter raccontare in maniera forse più ingenua, più incantata, quello che accade intorno a te a quell'età. È vero che ti leggono anche i genitori per capire qualcosa di più del mondo dei loro figli? Ma secondo me sono talmente incuriositi dal fatto che i figli leggano, che è una sorpresa per loro rispetto a come li vedevano indirettamente impegnati, che chiaramente si sono avvicinati ai libri. Mi fa piacere perché poi pochi giorni fa c'è stata proprio una nonna, una settantenne, che ha finito il libro e che mi ha fatto sapere tramite una persona che conoscevamo che le era piaciuto moltissimo e che per lei era stato come un riproporre una serie di valori, una serie di mancanze, delle cose che insomma... Federico piace anche alle nonne, perché vuol dire che sei un bravo ragazzo. Ma io volevo chiedere, approfittare della nostra Alice, della libreria di Viale dei Ciliegi, che tra l'altro, Alice, tu organizzi anche degli eventi sempre molto interessanti. Che facce hanno gli acquirenti del libro di Federico Moccia? Federico parlava di una nonna, ragazzine, genitori. Facciamo un po' un profilo. Naturalmente è meno vario, se volete, perché la nostra è una libreria specializzata per bambini e ragazzi. Dunque, sicuramente immagino appunto che ci sia qualche nonna e mamma che va a comprarle, ma di solito per sentirsi forse meno in imbarazzo vanno a comprarle nelle librerie generaliste, dove ci sono anche i libri dei grandi. Sicuramente anche delle nostre clienti avranno, magari adulte, avranno letto il libro di Federico Moccia, ma magari io immagino più facilmente rubandolo di nascosto dal comodino delle figlie. Più classicamente da noi vengono le ragazze a comprare i libri, i ragazzi, le ragazze in particolare, per tutti i libri di argomento sentimentale che generalmente piacciono di più alle ragazzine. Ma Alice, noi siamo più abituate a vedere questo tipo di clienti. Alice, ti capita mai che invece un ragazzo adolescente voglia leggere un libro, per così dire, sentimentale? Per fortuna sì. Meno sono male. Pochi, ma sono i lettori. Così imparano qualcosa anche loro. Alberto da ragazzo li leggeva. Questo è un punto dolente, sapete, perché è un punto dolente anche per molti che si occupano di letteratura per ragazzi, di critica, così. Purtroppo c'è poca educazione sentimentale al maschile. Sì. Alcuni ragazzini si adattano a leggere delle belle storie con un punto di vista femminile, ce ne sono di più sicuramente, alcuni riescono a superare il pregiudizio, perché poi per fortuna da adulti non facciamo questo ragionamento, non chiediamo qual è il sesso del protagonista, cominciamo a leggere se la storia ci incuriosisce. Certo. Purtroppo i ragazzini e i bambini a volte lo fanno, io cerco di dire ti puoi appassionare a una storia anche se raccontata da una femmina e tu sei un maschio. Senti, però diamo, Alice, diamo tempo al tempo. Intanto noi abbiamo una lettrice che è in linea con noi, si chiama Gaia. Ciao Gaia. Ciao a tutti, ciao Federico. Ciao. Allora, ti piace Federico Moccia? Tantissimo, è un uomo fantastico e speciale, è una persona squisita, avendola conosciuta al Festival della letteratura per ragazzi a Rimini, ho avuto modo di parlare con lui e ne sono veramente felice. Senti, hai detto quel tantissimo, me lo ridici? Che tantissimo. Io, vedi, ecco, Federico, riescono a dire questo tantissimo che io non riuscirò mai perché c'è troppe S, ma senti Gaia, che cosa ti è piaciuto del libro di Federico? Beh, sicuramente il modo di Carolina di descrivere la sua realtà, che è completamente diversa dalla realtà che posso vivere io adesso, che ho comunque solo 4 anni in più di lei, le descrizioni, il modo di vedere le cose, il modo di legarsi ai suoi amici, le amicizie, i primi amori e le esperienze, anche se logicamente in questa nuova generazione i ragazzi di 13 anni hanno fatto quasi tutto, hanno provato tutto sulla loro pelle. E quindi è proprio, Federico ha proprio descritto quella che è la generazione di adolescenti adesso. Insomma, ha fatto centro. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati veloci in linea con noi Federico Moccia e una sua lettrice, una sua appassionata lettrice, innamorata anche del suo stile di scrittura e di quello che Federico riesce a raccontare. Gaia, quindi ti sei un po' ritrovata nella Carolina di Federico? Sicuramente sì, perché lei ha questa visione della vita stupenda, è fatta di amicizie, di amore, di tristezza, comunque una realtà che ho vissuto anch'io, anche se in modo diverso, ma una realtà che ho vissuto anch'io e senti, che mi è piaciuto, un periodo della mia vita che mi è piaciuto tantissimo. Gaia, aiutami a capirne un po' di più, perché io ho anche figli adolescenti, per cui rubo qualche informazione qua e là, e volevo chiederti, si dice sempre che una lettura di un bel libro in qualche modo ti cambia. In che cosa ti ha cambiato? Che cosa ti ha dato il libro di Federico? Che in fondo è una storia di una ragazzina di 14 anni che tu in parte hai già vissuto. Che cosa c'è di nuovo? In che cosa ti fa riflettere, se ti ha fatto riflettere o prendere le distanze, o insomma rappresenta in qualche modo uno stimolo per lavorare su di te? Beh, sicuramente l'essere sempre in qualche modo felici e il poter condividere le proprie emozioni con gli amici, qualcosa che facevo magari più fatica quando ero più piccola, quando comunque mi tenevo magari tutto dentro, mm-hmm. senza sfogarmi. Certo. E invece Carolina è in grado di esprimere le sue emozioni. Quindi può essere un modello a cui un po' ispirarsi, da cui prendere spunto. Certo. Sì, e credo che questa sia un po' la bellezza anche di questo romanzo. Si è parlato ultimamente di film che raccontavano gli adolescenti ed erano davvero, io li ho visti, film terribili. Li hanno chiamati film antimocia per eccellenza. Secondo me erano film che hanno fotografato proprio una realtà molto molto degenerata, tra l'altro molto estrema e poco rappresentativa dei ragazzi. Federico, a questo proposito, quando tu incontri i tuoi lettori, hai tantissimi contatti con loro, presentazioni in libreria, che mondo scopri e quanto è importante per un autore incontrare i suoi giovani lettori? Beh, un pochino come quello che diceva Gaia, cioè il fatto che un libro alla fine ti lasci una sensazione, no? È come un sapore di qualcosa che ti rimane, che ricordi e che in qualche modo ti ha messo a fuoco qualcosa, ti ha aiutato a fare una considerazione. Delle volte ricevo dei commenti, i più belli sono quando proprio dice grazie, perché mi ha fatto capire che non mi stavo più accorgendo di una certa cosa. E quello è il momento più bello, perché oltre ad aver scritto, che è un piacere, ti senti anche in qualche modo utile. Senti Federico, se un po' una lettura di un libro cambia chi legge, io penso che scrivere dei libri cambia anche chi le scrive. Rispetto al Moccia del primo romanzo, sei cambiato un po'? Cioè hai fatto anche tesoro delle critiche o anche degli apprezzamenti. Sei un po' diverso, il Moccia che scrive Carolina è diverso dal Moccia di Tre metri sopra il cielo? Beh sì, perché rimane sempre da un punto di vista identico e sempre con i piedi per terra, nel senso che è tre metri sopra il cielo, ma in realtà sta tre metri anche sulla terra, nel senso che non bisogna mai montarsi troppo la testa, mancare il successo. La cosa che ti cambia è che senti una responsabilità un pochino diversa e quindi lo fai con il piacere, la libertà, la fantasia di scrivere, però ogni tanto pensi anche a quello che naturalmente una ragazza come Gaia e le sue amiche e tante altre persone potranno o cercheranno in quel romanzo. Allora, noi vi ringraziamo Federico Moccia e la tua lettrice Gaia, è stato un bellissimo incontro, ma dobbiamo passare dal mondo delle emozioni del tuo romanzo a un mondo di fantasy, è un mondo completamente diverso, però che ugualmente appassiona tantissimo i giovani adolescenti. Grazie Federico, grazie Gaia. Grazie a voi. E per introdurvi il nostro prossimo scrittore, che sarà una grandissima sorpresa, ascoltiamo di nuovo un brevissimo estratto dal suo nuovo libro. Cara Maya, mi dispiace davvero dal profondo del cuore di averti portato via Harry. L'altro giorno ti ho visto sboccare a scuola. Era per la delusione? Era per la rabbia? Vorrei tanto che tu mi perdonassi. Vorrei tanto poterti essere amica. E vorrei che tu sapessi che non l'ho fatto apposta a portarti via Harry. È successo tutto qui. Non so davvero. Non capisco cosa ci abbia trovato in me, cosa abbia io più di te. Ma mi dispiace. Sul serio. Avremmo potuto essere amiche. Forse. In ogni caso so che mi capirai, perché tu avresti fatto lo stesso. E io non posso davvero invitarti al mio 18esimo. La tua presenza, tu che sei così incattivita e chiusa, così cupa e triste, non farebbe del bene alla mia festa. E sai, i 18 anni arrivano una sola volta nella vita. Harry è d'accordo con me? Non prendertela, non ho niente contro di te. Solo se tu fossi appena un po' diversa, appena un po' meno incazzosa, appena un po' più disponibile, forse saremmo potute diventare amiche. Ma io non dispero. Il futuro, chissà, potrebbe riservarci un giardino di rose. La tua Stacy. Questo è un estratto da Maya, la predestinata. Gli autori sono Silvia Breina e Iginio Strafi, che è in linea con noi. Buongiorno Iginio. Buongiorno. buongiorno. Bravissima la nostra speaker che ce l'ha fatto ascoltare proprio come se fosse nella mente di chi riceve una lettera così incredibile. Sembra in realtà una storia dove si parla di adolescenza, di emozioni comuni tra adolescenti, ma questa storia in realtà entra invece poi in tutto un altro genere, il genere fantasy, di cui Ginio Strafi è un grandissimo esperto. Forse il nome non dice molto ai nostri ascoltatori, ma io credo che tu sei uno... Tu sei un papà molto famoso, in fondo. Chi sono le tue bambine, Ginio? Sono le Winx. Wow. Le Winx, signori, abbiamo uno dei 10 italiani più famosi nel mondo al nostro microfono, che è diventato anche scrittore. Perché hai scritto mai alla predestinata? Che cosa volevi dire in più rispetto a tutto il lavoro che stai facendo già con l'animazione? Ma ho scritto questo romanzo intanto perché, appunto, stimolato anche da questa mia amica giornalista Silvia Brena, abbiamo voluto raccontare una storia un po' diversa e, appunto, ritratto delle teenager sicuramente molto comuni in alcuni tratti, ma anche con la protagonista, appunto Maya, con un carattere, una personalità decisamente fuori dal coro. Questo perché tanto il progetto Maya è un progetto un po' più ampio che vedrà la luce anche di una rivista il prossimo anno e è già sbocciato anche come sito internet con diverse attività. Crediamo che, appunto, deve diventare una specie, dal libro, una specie di mondo di Maya e le sue amiche e le sue storie. Questo perché, appunto, i teenager di oggi chiaramente si possono ritrovare in un libro, ma sicuramente vivono e si nutrono tantissimo anche di internet e di altri media. E, come dicevo, Maya è un progetto che interessava perché tocca un target che è quello delle teenager, un target che tra televisione e, appunto, altri rotocalchi eccetera viene spesso bombardato solo da un certo genere di personaggi, di personaggi, appunto, femminili, di messaggi eccetera, quindi credevo che riportare un po' l'attenzione sul contenuto, sulle storie di mistero e un po' fantasy, come diceva lei, ma anche poi il discorso, appunto, delle personalità di questi personaggi un po' diversi dal coro era qualcosa di che mi interessava fare, ecco. In generale, anche con i cartoni, io cerco sempre di creare personaggi che sono veramente, oltre che credibili, ma che anche abbiano qualcosa, una voce un po' fuori dal coro. Eugenio, sì. Senti Eugenio, come abbiamo fatto per Moccia, abbiamo per te una tua lettrice, si chiama Aria, è in linea con noi, benvenuta. Salve. Grazie. Senti, questo nome tra l'altro è un soprannome, ci vuoi spiegare perché? Sì, è preso da Eragon, sì? Di Christopher Paolini, ed è l'elfa che, appunto, lo aiuta a compiere il suo viaggio come cavaliere di draghi, salvatore del popolo della Daesia. Quindi tu sei una grande appassionata di fantasy? Diciamo di sì. Sì. Senti, e il libro di Eugenio Strafi come ti è sembrato? È una voce fuori dal coro? Aiuta adolescenti, i teenagers come voi, a così vedere anche un po' il mondo con un altro paio d'occhiali, come direbbe Alberto Pellai? Sì, perché, appunto, ho visto da questa ragazza, che comunque è diversa dalla maggior parte dei ragazzi, perché si veste anche così molto gothic, e vabbè, poi ovviamente sono i due estremi, cioè le ragazze chiamate Mean Girls, le migliori della scuola, le più amate, e questi che non si possono considerare sfigati, ma comunque non sono molto apprezzati. Certo, capita così poi, no? Nella quotidianità. Alberto? Eugenio, quando hai pensato a Maya, cosa volevi disegnare dentro a questo personaggio che fosse realmente fuori dal coro? Questa casa non è un albergo. Eccoci tornati, in linea con noi il papà delle Winx, Eugenio Strafi, che insieme a Silvia Brena ha appena pubblicato un romanzo per adolescenti, Maya, la predestinata. Eugenio, riprendo la domanda: cosa ha di così fuori dal coro e di così significativo per le lettrici adolescenti il personaggio di Maya? Maya ha di sicuro il fatto di essere una, una persona che pensa proprio con la propria testa e quindi un'anticonformista pura, nel senso che lei si adegua ad alcuni degli stilemi e delle, appunto, delle abitudini dei suoi coetanei, ma poi ha dei gusti molto precisi, ha dei suoi pensieri molto specifici e definiti su alcune cose. È quindi una persona veramente molto dalle idee chiare, una donna sicuramente, una ragazza, ma già una donna molto, molto moderna, che comunque è sicura delle proprie scelte e soprattutto non ha problemi ad esprimerle, a far notare che lei magari non è una che segue il branco e che appunto non pensa con la propria testa. E detto questo, chiaramente visivamente ho immaginato questa ragazza come una ragazza appunto con i capelli neri lunghissimi e con questo sguardo molto intenso e una figura comunque slanciata, ma non esilissima, perché appunto poi mi era a cuore anche il fatto che queste teenager non pensassero che bellezza o comunque uguale a particolarità è associata alla magrezza. Certo, che sicuramente hai fatto benissimo. Volevo chiedere a Daria, prima di salutarla, quanto ti riconosci in Maya? Secondo me abbastanza, perché comunque anch'io quando posso mi vesto di nero. Sì. Ovviamente non sempre. Riesci a parlare riesci a pensare con la tua testa? Questo mi sembra la cosa bella di Maya. Riesco a pensare con la mia testa, però purtroppo sono molto timida e non riesco a esprimere sempre le mie idee, o comunque a esprimerle come vorrei. Sì, insomma, un po' Maya. Aria è un po' Maya. Questo è il motivo, credo. Pensavo giusto ieri, avrei potuto scegliere come soprannome Maya se l'avessi letto prima di scegliere Aria. Beh, questa è una bellissima cosa che ti dice Iginio. Vero, no? L'apprezzo moltissimo quest'ultima. Beh, c'è il soprannome del soprannome, tu potresti firmarti Aria Maya, no? Aria Maya. Va bene, secondo me è anche bello come suono, Alberto. Sono perfettamente d'accordo, credo che in quello che ci ha appena detto Aria c'è anche un grande segreto per cui questi eroi e eroine fantasy piacciono così tanto ai ragazzi, li aiutano un po' a pensarsi capaci di superare le fatiche dei tutti i giorni, anche se non hanno a disposizione come personaggi dei superpoteri, però effettivamente se sei un po' timido, identificarti con un'eroina che ha tutte queste caratteristiche, che ce la fa, probabilmente ti fa un po' bene nella vita, ti aiuta a vivere meglio. Grazie Iginio, grazie. Grazie a voi. E grazie a Daria e aggiungo Maya. Grazie a voi. Un abbraccio. E noi siamo ancora insieme con Alice, la nostra libraia. Ma quanto sono in gamba queste ragazze che leggono? Ci sono anche ragazzi, per fortuna, che divorano dei libri, però ho notato nelle nostre due lettrici una sensibilità particolare che la lettura sicuramente sviluppa. La lettura sicuramente sviluppa, e poi come dicevi tu, guarda, sono molto contenta di questa tua esclamazione proprio a caldo, a intervista appena fatta, di quanto sono in gamba, perché questa è una delle mie battaglie costantemente, purtroppo. Tanto spesso sentiamo parlare dai media di questa generazione di adolescenti come una generazione un po' scema, no? Sì. Mentre invece io che ci lavoro, e naturalmente poi ho la fortuna di lavorare con quelli che leggono, che non sono solo quelli che leggono, c'è una coincidenza di interessi dimostrata da tutte le statistiche, quelli che leggono sono quelli che fanno più cose, che sono più stimolati in generale, che utilizzano con più consapevolezza tutti i media, sono dei ragazzini straordinari. È vero, perché poter scegliere, avere la curiosità, leggere un libro, confrontarsi, è una cosa che ti arricchisce tanto, e trovo che sia veramente una fortuna appassionarsi alla lettura e anche trovare delle persone che al di fuori anche dell'ambito familiare educhino alla lettura, perché la lettura è un piacere, si cresce leggendo. E questo è fondamentale sin da quando si è bambini, e proprio a proposito di bambini dobbiamo accogliere un ultimo ospite. Avevamo il papà delle fatte più famose nel mondo, cioè e le Winx. La fatina. E adesso abbiamo una fata vera, una fata per eccellenza, l'ascoltiamo e poi ci racconta il suo ultimo progetto. Ogni bambino ha una fiaba nel cuore che mai scorderà. Basta un po' di magia e con la fantasia il suo sogno realtà diverrà. Mi Insomma, la fatina più amata dai bambini e non solo. Cristina D'Avena, ciao! Ciao! Ma che bello averti! Eh? Splendida conclusione della nostra trasmissione. Scendiamo un po' di età, ma... Alberto. Ma abbiamo una fata che ha appena prodotto in realtà non un CD come è solita fare, bensì un libro con dentro un CD che nasconde un audiobook, cioè una favola che la puoi leggere nel libro, ascoltarla dal CD. Guarda, tutto è nato circa un anno fa, parlando con un gruppo di mamme e con i bambini, perché io faccio tanti spettacoli per i bambini, i bambini grandi, ma anche i bambini piccoli, che vengono ad ascoltare le canzoni, vengono a cantare, eccetera, e ogni tanto mi soffermo a parlare con le mamme e i bimbi. E si parlava appunto di favole, di fiabe, del mondo delle favole, del fatto che comunque i bambini ultimamente sognano un po' meno, no? Cioè i bambini di questa generazione sono molto tecnologici e spesso e volentieri mettono così come ultima fase il racconto o la voglia di raccontarsi o di raccontare. Io sono stata sempre una bambina appassionata di favole, io ascoltavo le favole, andavo a vedere tutti i film, mi piaceva sia ascoltare che leggere favole e mi piace anche raccontarle. E quindi, insomma, dopo una chiacchierata mi sono messa un po' così a pensare, dico, ma in effetti i bambini di questa generazione che mi conoscono perché canto le sigle, ma perché non possono conoscermi anche perché magari posso raccontare una favola? E così, insomma, mi sono messa a pensare e assieme ad un'autrice, Maria Grazia Bertarini, della Giunti Editore, abbiamo scritto queste prime due fiabe, una fiaba è dedicata ai draghetti pasticcioni e un'altra fiaba è dedicata invece al ballo degli scoiattoli. Questo perché? Perché in realtà la collana di questo progetto, insomma, è Cristina D'Avena racconta le fiabe di Fatacrì, perché Cristina D'Avena apre il libro, comincia a raccontare, entra nel magico mondo della fantasia e si trasforma in Fata Cree e vive delle bellissime avventure. Infatti in realtà sono io la Fata Cree, sono proprio io che mi hanno proprio disegnato, cioè sono proprio io con il vestitino. Guarda che bellissimo, tutti noi, Cristina, tutti noi, almeno le bambine, crescono un po' con l'idea di diventare fata. Tu sei diventata una fatina, la sei e anche disegnata. Tra l'altro, siamo ormai in chiusura, dobbiamo salutarci. Intanto volevo approfittare anche, Alberto, che tu dessi un'indicazione ai genitori. Dobbiamo imparare e appassionarci nuovamente a raccontare le favole. Noi avevamo i nostri nonni, gli zii, un po' i vecchi di casa, che ci raccontavano delle storie e avevano il piacere di farlo. Secondo me questo fa crescere i bambini, ma in qualche modo è terapeutico anche per noi. Riprendiamo a raccontare le favole ai nostri bambini. Assolutamente sì, è proprio la bellezza di un audiobook che ha un CD che racconta la storia e un libro dove la storia è scritta, è la possibilità per un bambino di fare un percorso completo, entrare dentro un libro, contemporaneamente poter ascoltare una storia bellissima. E ti dirò che tutto questo è entrato anche in casa mia, perché da 2 settimane a casa Pellai si va a letto solo con Fatacrì. Allora salutiamo Fatacrì alias Cristina D'Avena, ringraziandola per essere stata con noi. Facci una magia comunque, e non trasformare Alberto Pellai in un rospo però, voglio ringraziare in modo particolare Alice Bigli della libreria Viale dei Ciliegi di Rimini, una libraia anche lei un po' fata. Grazie a voi per l'invito. E allora Alberto, salutiamoci anche noi, e senza bacchette settimana. Magiche, alla prossima settimana. Buon sabato a tutti da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.